GR Europa. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Un accordo per la normalizzazione delle relazioni tra Pristina e Belgrado, in particolare sulla gestione della zona nord del Kosovo a maggioranza serba, è a portata di mano, anche se non sarà facile raggiungerlo, e non dobbiamo lasciarci sfuggire questa occasione. Così Catherine Ashton, altro rappresentante per la politica estera UE, in vista dell'ottavo atteso round del dialogo con i premier serbo e kosovaro questo pomeriggio a Bruxelles. La missione UE in Mali ha iniziato l'addestramento di un primo contingente di 570 soldati dell'esercito maliano. Oggi i soldati hanno lasciato la capitale per dirigersi a Kolikoro, 60 km a nord, dove è stato allestito il centro di formazione militare. L'ha spiegato il tenente colonnello Philippe de Cussac, portavoce della missione di formazione dell'UE, si chiama EUTM. I soldati saranno formati per 10 settimane da 100 istruttori provenienti da 7 paesi dell'Unione. A febbraio resta stabile a livello record del 12% la disoccupazione nell'eurozona, dove sono 19 milioni i senza lavoro. Lo registra Eurostat. Sentiamo il servizio di Beda Romano. Gli ultimi dati sulla disoccupazione in Europa rischiano di creare nuove tensioni politiche nei paesi più fragili della zona euro. Secondo Eurostat sono oltre 19 milioni disoccupati nell'Unione monetaria, pari al 12% della popolazione attiva. Le differenze tra nord e sud in Europa restano impressionanti, complicando non poco le diverse percezioni che gli Stati membri hanno della crisi economica e finanziaria. La stessa situazione politica italiana pesa sul sentimento dei mercati e dei governi. L'incertezza che domina a Roma sta creando nuovi nervosismi che potrebbero presto aumentare in assenza di una soluzione. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E infine il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, riceverà i presidenti dei parlamenti membri dell'Unione per il Mediterraneo il 6 aprile prossimo a Marsiglia. Il vertice, convocato su iniziativa di Schulz, costituirà la prima riunione di alto livello dopo il vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione per il Mediterraneo a Parigi del 2008 e sarà il primo appuntamento dopo le rivoluzioni politiche della primavera araba. Bene, con questo abbiamo concluso. GR Europa torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.